La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, La Rosa Purpurea, a raccontarvi tutto il cinema che c'è come ogni sabato alle 18 su Radio 24. È la prima puntata di dicembre, rullano i tamburi del Natale. Non so se ci sono dei tamburi del Natale, ma insomma, se ci sono rullano sicuramente, perché da questa settimana si va verso il culmine, insomma, della stagione cinematografica, almeno per quanto riguarda il botteghino, ma sempre di più anche per quanto riguarda la qualità, perché sono sempre più numerosi i tentativi di dare anche un'alternativa, non solo ai cinepanettoni. Quest'anno ce ne saranno ben quattro, quindi sarà veramente una scorpacciata, per chi la fa ovviamente, e però anche al cinema mainstream, diciamo così. I tentativi di dare qualcosa ci sono e noi chiaramente gli stiamo dietro, cerchiamo di raccontarvi veramente tutto il cinema che c'è. A partire per esempio questa settimana da un film che si intitola La stoffa dei sogni. Allora, tenente, avete catturato una compagnia di guitti scavalcamontagne, si dice così, mi pare, no? Direttore, chiamateci come volete, ma non ci mancate di rispetto, perché questo non ve lo permetto. Non vi dimenticate che fino a prova contraria noi siamo naufraghi e cittadini incensurati. Fino a prova contraria io posso sbattervi tutti in galera. Fino all'arrivo del prossimo postale, 7 giorni campese, 7. Fino a prova contraria, consideratevi agli arresti domiciliari. Che bella schermaglia dialettica fra due grandi attori del nostro cinema che magari non sempre hanno, come dire, si sono trovati, diciamo così, nel film giusto, che questa volta invece sì. E stiamo parlando, li avrete riconosciuti, di Sergio Rubini e Degno Fantastichini, due mattatori, due che insomma rischiano magari di andare sempre un po' sopra le righe con una recitazione molto piena, molto carnale, ma che questa volta, ripeto, ci stanno. Questa volta si intitola appunto La stoffa dei sogni, è un film diretto da Gianfranco Cabiddu e racconta una storia molto molto affascinante, liberamente ispirato all'arte della commedia di Eduardo De Filippo e soprattutto, qualcuno la ricorderà, la traduzione in napoletano della Tempesta di Shakespeare di De Filippo. La stoffa dei sogni racconta questo gruppo di teatranti naufraghi su un'isola. Arrivati su quest'isola vengono di fatto requisiti, diciamo così, sequestrati da una banda di camorristi che si finge a sua volta teatrante per far sì che, insomma, da non finire in galera, da non finire sotto le grinfie del gerarca del posto, che appunto è interpretato da Ennio Fantastichini. Il capo comico, il capo attore è invece Sergio Rubini, e insomma, un po' per forza, un po' per amore, potremmo dire, si convinceranno a mettere in scena la Tempesta di Shakespeare in questa versione appunto napoletana, affinché il brigadiere, affinché il capo della forza dell'ordine locale possa riconoscere dalle pessime recitazioni coloro i quali non sono i veri attori, ma sono i camorristi infiltrati. Una storia surreale, veramente degna del grande Eduardo, ma che devo dire, Cabiddu dalla parte della regia, con una fotografia molto luminosa, con la capacità di fare tanto con pochi elementi, riesce a portare in fondo. E devo dire, questa volta davvero il merito è anche e forse soprattutto di questi due grandi attori. Boris Sollazzo, in collegamento con noi, ti chiamo in causa da amante della cultura napoletana proprio per chiederti se sei d'accordo, se ti è piaciuto questo film La stoffa dei sogni. Sono assolutamente d'accordo, Franco. Mi sembra che la definizione migliore sia quella con cui hai commentato la clip, cioè quella della schermaglia dialettica. Metti Shakespeare, De Filippo, io aggiungerei anche italiani, poi per la struttura narrativa, per il senso profondo che l'immaginazione può avere nella costruzione di una realtà, tra l'altro appunto in un'isola carcere o in un carcere, e mettili insieme avrai il film di Cabiddu, che è un film di una delicatezza straordinaria, capace di mettere in campo un linguaggio sia cinematografico che narrativo non banale, di proporre il linguaggio che può sembrare aulico, arcaico, e che invece diventa estremamente attuale in questo racconto, in questo duello, in questa singolare tensione, nel senso proprio profondo del termine, in cui singolare è anche il modo in cui avviene questa battaglia di una settimana sul testo e sul pretesto della Tempesta di Shakespeare. Metti in singolare tensione Rubini e Fantastichini, Avrai, secondo me, un film molto interessante, un film che tra l'altro ha avuto anche i suoi problemi perché è stato realmente girato all'Asinara, è un film che ha avuto problemi meteorologici e anche di spostamenti, perché chiaramente portare la macchina cinema in un'isola così non è facile, e in cui probabilmente Cinema e Vita sono riusciti a costruirsi un terzo piano in cui la narrazione e il racconto sono diventati anche qualcosa d'altro. Qui Gabbiadu non è solo un bravo regista, secondo me si fa veicolo di varie arti e vari immaginari. Fantastichini e Rubini hanno il vantaggio di essere un po' se stessi e di sfruttare il proprio talento d'attore al meglio, anche quello più istrionico, quello più che ultimamente li aveva fatti sembrare più gigioni, qui sono funzionali e strumentali al film. Quindi, nonostante non sia stato un film fortunatissimo, nonostante non esca in tante copie, io ve lo consiglio perché mi sembra un modo intelligente e originale, come sempre capito, anche se diciamo le sue opportunità cinematografiche non sono state tante, di andare un po' oltre, di essere sfidati anche come spettatori, il che non è affatto male, e a mio parere questo vi farà anche magari perdonare qualche piccolo errore, qualche piccola imperfezione che secondo me rendono ancora più affascinante l'operazione. Andiamo a riscrivere il copione. Oh, copione. E che c'è te, copione? Noi recitiamo una schifezza perché non so parola nostra. Dobbiamo parlare più naturale. Ma che volete fare il mestiere che faccio io? Questo è Shakespeare. Come fa la sceneggiata? Sentitemi bene. Io carcerato ci finisco lo stesso, ma non me ne importo. Però non mi voglio far ridere alle spalle. Questa soddisfazione il direttore non la deve avere. Io non voglio fare il buffone per nessuno. Lo so spiegato. Altro bellissimo passaggio della Stoffa dei Sogni di Gianfranco Gabbiadu, il film con cui abbiamo voluto aprire questa puntata della Rosa Purpura, proprio per raccontarvi che di qualità ce n'è anche in questo mese di dicembre che poi vola verso il Natale. Adesso viabilità, la situazione sulle strade. Vi ricordo che il film di cui parleremo, il film principe diciamo di questa settimana di uscita, è Sully di Clint Eastwood, ne parliamo più tardi. Fra poco invece torniamo con una commedia che arriva dagli Stati Uniti, si intitola Amori e Inganni, fra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, allora seconda parte del nostro programma per parlare di Amore e Inganni, una commedia in costume di Whit Stillman, raffinato regista della sfera newyorkese, anche sceneggiatore di questo film, con la storia ispirata a un racconto di Jane Austen, la storia di una giovane vedova molto molto furba, furbacchiona, Lady Susan Vernon, che è interpretata da Kate Beckinsale, che insomma così si dà a una vita che da una parte sembra morigerata, dall'altra ha molti molti secondi fini. Non avevo idea che Frederica fosse così ribelle. Sembrava avere la mitezza dei Vernon. Ma questo conferma la bontà della mia idea. Sir James ti ha fatto visita? Diverse volte. Eccellente. Ho seguito le tue istruzioni. L'ho rimproverato per aver amoreggiato con Maria Mannering. È insorto dicendo che era stato un gioco. Hai ragione. È stupendamente sciocco. Dobbiamo impedire che Sir James dimentichi di chi è innamorato. Un uomo così ricco e così sciocco non resterà a lungo celibe. Sir James è ben lungi dal dimenticare le Vernon. Sposerebbe una di voi due all'istante. E allora, avete sentito storie di corte, questa donna, questa vedova che per capire un po' di più dei pettegolezzi che si svolgono nel Regno Unito di fine XVIII secolo va a passare un periodo di vacanza in una tenuta di un grande signore a Churchill dai parenti del defunto consorte. Ebbene, lì Lady Susan capirà e carpirà un po' i segreti dei giardini di, non di Compton House in questo caso, appunto di Churchill, e cambierà un po', mettendo molta zizzania, la vita di tutti quelli che la circondano. È un progetto che Whit Stillman voleva realizzare da parecchio tempo. Whit Stillman non è un regista particolarmente prolifico. Io l'ho conosciuto nel 1990 a Cannes, mi ricordo, lo intervistai lì ed era il suo esordio. 1990, Metropolitan, un film bellissimo. Da allora sono arrivati praticamente, questo è il quinto film, per dirvi come dal 90 oggi oggi, 26 anni, Witt Stillman non abbia prodotto tantissimo, però ha prodotto alcune cose che sono anche rimaste, che qualcuno ricorderà, Barcellona per esempio, oppure The Last Days of Disco. Ebbene, questa volta si cimenta con l'opera di Jane Austen, cercando di trarne un po' lo spirito forte di questo racconto, ma anche, come dire, non affannandosi più di tanto nella modernizzazione, Boris. Cioè, mi sembra un tentativo di stare anche sull'epoca nei dialoghi, per esempio, che forse, dal mio punto di vista, sono anche un filino troppo verbosi, sono un po' troppo ricchi, un po' troppo barocchi, esattamente come appunto rispecchiano quella aristocrazia inglese di quel periodo che viene raccontato nel film. Sono persino scritti troppo bene questi dialoghi. Se si vuole trovare un difetto al film di Stillman, che secondo me è molto interessante, è proprio appunto quello che tu chiami barocco, cioè il tentativo di rendere bello in maniera esasperante tutto, perché l'estetica di quegli anni lo pretende. Devo dire che però da un'altra parte c'è anche il prendere un'opera minore di John Austin e darle una grandissima giustizia. E le sorprese sono due: uno, che si può ancora fare qualcosa di estremamente attuale, empatico rispetto a uno spettatore moderno, mettendogli dei pesanti costumi e dei pesanti colpetti addosso. E l'altro, scoprire che Kate Beckinsale, che è un'attrice che ha sempre fatto film estremamente peggiori rispetto al proprio talento, abbia trovato piuttosto tardi un film alla sua altezza, un film all'altezza di quel talento, un film che la facesse uscire dalle pastoie dei Pearl Harbor, degli Underwood, di quell'icona romantico maledetta che si era cucita addosso e che poco si compaceva, secondo me, sia al fisico sia alle qualità recitative. Il risultato, secondo me, alla fine è un bel film che, come dici tu, si lascia andare a una verbosità esagerata, a mio parere forse anche a qualche scatto di regia, qualche virtuosismo di regia di troppo, ma che ha la felicità, secondo me, dello Cherie con Michelle Pfeiffer, un film che, devo dire, insomma, è fatto bene e non si può dire molto spesso del cinema moderno. A volte un film fatto bene, anche se non è un capolavoro, può darti una grossa soddisfazione, sia come spettatore che come critico. Sir James Martin è sciocco per colpa mia. Sì, al vostro confronto è uno sciocco. E non al confronto di tutti? No. Ma ha dato a tutti la stessa impressione. Perché tutti l'hanno visto accanto a voi. Negate i sentimenti di Sir James per voi? Per me? È di Frederica che è innamorato. L'ha chiesta in moglie. Come potete permettere a un tale idiota di corteggiare vostra figlia? È incomprensibile. È incomprensibile per chi è ricco e agiato. Voi potete salire su un piedistallo e impartire giudizi morali. Se solo immaginaste quanti giovani ridicoli debba sopportare una fanciulla senza dote, sareste più generoso con Sir James. Witt Stillman, quindi, con la sua commedia di maniera, il film Amori e inganni, qualcuno l'ha definito appunto la risposta WASP a Woody Allen, no? Tanto Woody Allen è incarnato nella cultura ebraica, quanto appunto Witt Stillman potrebbe essere una risposta anglosassone protestante del grande regista newyorkese. È il momento di giocare insieme, è il momento di farlo con la prima traccia del film misterioso di oggi. Maestro della meditazione, la serenità suprema, il quattro volte campione mondiale di pensieri massimi! E chi è? E chi è? Chi è lui? Chi è il campione di meditazione? Qual è il film? Qual è il titolo del film? Uno dei personaggi più simpatici di questa stagione cinematografica. Ha proprio aperto la stagione cinematografica questo film, che è ancora in alto negli incassi annuali. Ebbene, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo, il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it e provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo alla fine di questa puntata e di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Adesso andiamo avanti con la nostra trasmissione parlando di un film che mette insieme due festival, perché lo abbiamo visto al Torino Film Festival, che si è recentemente concluso settimana scorsa con la vittoria di The Donor, film cinese che è stato premiato veramente praticamente all'unanimità dalla giuria del Torino Film Festival, e sarà mostrato invece a Milano domani, domenica 4 dicembre, allo Spazio Oberdan alle 17. Si intitola, ha un titolo molto, molto originale, Chi mi ha incontrato non mi ha visto, ed è un film molto particolare di Bruno Bigoni, regista documentarista milanese, che racconta una passione, una ossessione direi, quella per Arthur Rimbaud, il grande poeta francese, una fotografia inedita che potrebbe mettere in discussione tutto quello che fino adesso si sapeva di Rimbaud, e finisce nelle mani di questo collezionista, appunto Bruno Bigoni, che recita il ruolo di se stesso in questo che è un vero e proprio mockumentary, cioè un documentario finto praticamente, no? Questa foto ritrae Rimbaud su un letto d'ospedale senza la gamba destra, si sa che fu amputato, con un foglio in mano su cui si leggono versi che non sono mai apparsi in nessuna raccolta. E allora l'ossessione sta nel cercare di capire, intanto nell'acquisire questa foto da questa collezionista misteriosa francese che gliela vuole vendere, e poi cercare di capire se è vera. Tutti lo dissuadono, dico guarda che non avrai mai la certezza che si tratti di un documento vero, ma quando, come dire, il cuore va oltre la ragione c'è poco davvero da discutere. È un film piccolo, dura un'ora, piccolo nel formato, molto leggero, molto appassionante, questo di Bruno Bigoni, che davvero vi consiglio di provare ad andare a vedere. Noi abbiamo incontrato Bigoni a Torino durante una chiacchierata, appunto davanti a una pizza. È nata questa piccola intervista che vi facciamo ascoltare. In realtà che giro intorno a questa vicenda sono 13 anni. Il problema è che non trovavo la forma, perché all'origine pensavo a un film di finzione e quindi con un protagonista a cui capitavano delle cose, però mi sembrava troppo lontano, cioè che in qualche modo non riuscissi ad agguantare bene l'affaire Rimbaud. Quindi l'ho anche un po' mollato, l'ho abbandonato, è sempre rimasto. Intanto ho girato delle piccole illuminazioni, se ne vede una dentro il film, però insomma erano sempre omaggi relativi, fino a quando ho pensato che invece la soluzione del documentario poteva avere un suo perché, proprio perché il linguaggio del documentario mi permetteva una libertà espressiva che la finzione non mi permetteva. E quindi ho cominciato a girare intorno a questa cosa. Poi ho incontrato Renato Minore, il libro di Renato Minore, a cui viene offerta una fotografia di Rimbaud schiavista. Lui non la compra e poi si pente di non averla comprata. A quel punto il passo, cioè trovato l'attacco, poi ho cominciato a costruire poi questa cosa, lavorando proprio sul falso e sul vero, perché poi in realtà questo è un film che parla anche molto di quello, di ciò che si incontra e che non si riesce a vedere. E parla anche di cosa, di dove ti può portare una passione, no? Una passione per esempio come questa, che è una passione sicuramente culturale ma anche proprio meramente collezionistica, cioè il desiderio del possesso di una cosa che non hai e che ti dice qualcosa di fondamentale per qualcuno che per te è stato importante. Beh, questa cosa è così vera che dentro il film c'è una sequenza in cui io vendo alcuni album della mia collezione e pochi potrebbero capire che se trovassi una copia del concerto di Nico, che si chiama Concerto all'Inferno, dove esistono 500 copie in vinile di quel disco e basta, sarei pronto a tutto pur di comprarlo. Per cui Rimbaud, che per me ha un valore assoluto, perché questa è verità, perché l'ho scoperto quando ero giovane, non l'ho mai abbandonato, insomma la sua poesia mi ha molto passato tante cose. Trovarmi una fotografia di Rimbaud è quasi inevitabile che ci faccia un film, visto che il mio lavoro oggi è questo. Bruno Bigoni alla Rosa Purpurea per raccontare Chi mi ha incontrato non mi ha visto. Il film sarà mostrato domani allo Spazio Oberdan a Milano alle 17 nell'ambito di Filmmaker, il festival internazionale del cinema indipendente. Adesso linea alla regia, fra poco torniamo, ci aspetta Clint Eastwood con il suo Sully. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, è arrivato il momento di parlare del film che tanto aspettavamo, insomma, in questa parte della stagione, uno dei film più attesi, perché quando ritorna sul grande schermo uno come Clint Eastwood, insomma, c'è sempre qualcosa da sperare, qualcosa da andare a vedere, forse anche qualcosa da imparare. Stavolta devo dire, e preannuncio già un giudizio, che è andata bene perché negli ultimi anni non sempre Clint Eastwood ci ha regalato perle, clamorose, inimitabili della sua carriera. A volte sì, è successo con capolavori come Gran Torino, tanto per dirne una, a volte anche un po' meno. Sully invece è un film importante, un film importante per il rigore, per il senso della verità e della giustizia che trasmette, ed è un cardine ormai della filmografia recente di Clint Eastwood, ma è anche importante proprio per il cinema, proprio perché è un film sicuramente classico, ma con un'impostazione e soprattutto un montaggio davvero interessante. Interessante soprattutto se arriva da un regista ultraottantenne che dimostra così di saper rimiscolare le carte, di non appoggiarsi a comodi sentieri, ma di sapere atterrare ovunque. Proprio di atterrare dobbiamo parlare. La storia è quella assolutamente autobiografica, la ricorderete perché è un fatto del gennaio del 2009, roba recente, quando un aereo di linea americano affiumò, non so come dire, sull'Hudson River a New York, dopo aver rischiato seriamente di schiantarsi contro qualche caseggiato, contro qualche grattacielo. Un aereo che era aveva problemi di avaria e che cercò, come dire, proprio sulla base del comandante Chesley Sullenberger, che è Sully del film, e del suo copilota Jeffrey Zaslav, cercarono appunto di portarlo più in salvo possibile. La cosa assurda è che questo salvataggio, che vide i 155 passeggeri tutti salvi, peraltro, mise in crisi i due pilota e copilota che vennero processati, perché qualcuno molto teorico gli diceva: ma no, voi avevate la possibilità teorica di atterrare, di fare un atterraggio di emergenza all'aeroporto La Guardia, e invece avete rischiato di più del previsto. Perché non siete tornati alla Guardia? È semplice, non avevamo sufficiente quota. E l'Hudson era l'unico posto sufficientemente lungo, liscio e largo per un atterraggio in sicurezza. Secondo il controllo traffico, lei ha detto che stava tornando alla Guardia, ma non l'ha fatto. Ho capito che non ce l'avremmo fatta e che stavo eliminando le alternative. Tornare alla Guardia sarebbe stato un errore. Cerchiamo di capire come avete calcolato questi parametri. Non c'era tempo per fare calcoli. Mi sono affidato alla mia esperienza sulla gestione di altitudine e velocità in migliaia di voli per più di 40 anni. Cioè non ha fatto alcun... Ho calcolato a vista. Boris, abbiamo sentito un passaggio di Sully, un altro dei film presentati in anteprima italiana, diciamo, al Torino Film Festival. Mettevo proprio, come dire, l'evidenza sul montaggio, perché secondo me è l'elemento che fa veramente decollare, perdonatemi ancora un termine aeronautico, fa decollare definitivamente il film. Assolutamente sì, e se si conta che, almeno a detta di Clint Eastwood, lui non va mai oltre un periodo di montaggio che va dalle 2 settimane a un mese, ci si rende ancora più conto dell'impresa straordinaria. Questo forse è il film in cui lui attinge di più al lavoro del proprio montatore, perché è tutto fondato sul fatto che vengono raccontati 200 secondi in maniera ossessiva, destrutturandoli, deformandoli, frammentandoli e poi rimettendoli insieme una quantità di volte incredibile. Lo si fa da prospettive diverse, da prospettive oggettive, soggettive, quindi da prospettive tecniche, quindi veramente un lavoro incredibile, eccezionale, devo dire, anche da parte degli attori, in questo modo sono costretti a frammentare la propria interpretazione e allo stesso tempo a dargli tantissime sfumature. Io sono, diciamo, forse più buono su Eastwood, perché l'unico vero fallimento, secondo me, degli ultimi anni di carriera è Hereafter. Per il resto Eastwood ha una propria capacità di narrazione, cioè il giorno che non ci sarà più o deciderà di chiudere con il cinema, nessuno saprà più raccontare le sue storie e nessuno saprà più raccontarle come lui. In un'epoca di cinema standardizzato probabilmente si può dire di pochissimi questo, si può dire di Scorsese, si può dire di Eastwood, si può dire di Arden e di Loach, non di moltissimi altri si può dire lo stesso. E la forza della lezione di cinema che lui dà con Sully è che prende una storia paradossalmente banale, perché che cosa c'è di tragico in un salvataggio in cui tutti rimangono in vita? Che cosa c'è di antieroico, e sappiamo quanto il cinema abbia bisogno di chiaroscuro, di qualcuno che ha fatto la scelta giusta? Cosa c'è di più retorico dell'uomo che va contro il sistema? Insomma, sono film che Coppola ha fatto già molto tempo fa. È un film, se vogliamo, non solo classico, ma persino vecchio e banale nella sua struttura. Peccato che però ci sia Clint Eastwood alla regia, e Clint Eastwood alla regia lo rende una lezione di vita e una lezione di cinema. Questo perché? Perché intanto ci dice che tutti i discorsi sulla sospensione dell'attesa dello spettatore per il finale sono falsi. Lui ci fa sapere subito che tutti si sono salvati, noi lo sappiamo perché è un fatto del 2009, quindi non abbiamo l'attesa e la suspense del finale ad attenderci. Abbiamo solo un grande regista e due grandi attori, perché tutti parleranno di Tom Hanks, ma ragazzi, il copilota Aaron Eckhart con i suoi silenzi, le sue facce e l'ultima battuta che si concede e che gli concede Clint Eastwood è davvero da premio, non mi stupirebbe un Oscar al miglior non protagonista. Questi tre riescono a portare avanti un racconto vibrante, straordinario, etico, epico, che prende una storia normale e la fa diventare eccezionale. E che cos'è il cinema di Eastwood? Sempre questo: uomini normali che diventano eccezionali, uomini che vivono nell'incubo americano, in questo caso la burocrazia di un ente di controllo, e che però credono talmente tanto nel sogno americano da incarnarlo profondamente. Francamente, insomma, questo per me è grande cinema e Sully lo ricorderemo come uno dei migliori film di Eastwood. E se avessi mandato tutto all'aria? Ma che dici? Se avessi preso un abbaglio proprio alla fine della mia carriera, se avessi messo in pericolo la vita di tutti quei passeggeri. Ma Sully, guarda i telegiornali, sei un eroe e dovranno abituarcisi tutti, incluso il consiglio. Nella peggiore delle ipotesi, il consiglio indicherà me come probabile causa, ovvero dimissioni immediate e niente pensione. Addio al lavoro di una vita. Ok, ora mi stai spaventando, Sully. E avete sentito al momento in cui Tom Hanks e sua moglie appunto raccontano questo stato d'animo. Tom Hanks, Aaron Eckhart, Sully nei cinema italiani, la regia è di Clint Eastwood. A questo punto noi invece giochiamo nuovamente insieme con la seconda traccia del film misterioso. C'è nessuno? C'è nessuno? Mammiferi. E allora, ciao mammiferi, di quale film si tratta? Il titolo, il vostro indirizzo alla la rosa purpurea @radio24.it per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film. Fra poco la soluzione. Adesso invece passiamo a un altro film uscito questa settimana, Free State of Jones. Mi aiuto, ti porto via. Starei bene. Fa male. Lo so che fa male. Devi solo tenerti stretto, stretto a me. Credi che morirò? No, che non morirai, ti faccio curare. Sì, aiutami. Senti, ho un ragazzo qui. Scusate, ho un ragazzo qui. Ho degli ufficiali, non c'è posto. E allora Boris, una storia della guerra civile americana con un cast che vede Matthew McConaughey protagonista, una storia di una sorta di rivolta, di rivoluzione trasversale che viene portata avanti dalla gente comune contro soldati che commettono soprusi, una storia mi verrebbe da dire tristemente attuale, visto che in tutti gli scenari di guerra se ne sentono di queste storie qui, e che appunto il regista Gary Ross va a ripescare proprio dal ventre della storia americana, che è appunto la guerra civile. Due minuti per raccontarci un po' questo Free State of Jones e soprattutto se vale la pena vederlo. Confesso, sono abbastanza anziano da ricordare quanto fosse scarso come attore Matthew McConaughey e sono abbastanza anziano da non capire come sia diventato così bravo. Probabilmente già lo era e si accontentava da giovane di incassare soldi per i suoi popcorn movie. Per fortuna a un certo punto ha deciso che doveva diventare un grande attore o doveva mostrare a tutti che fosse un grande attore e lo è diventato. Free State of Jones è sicuramente un film che merita di essere visto. Merita di essere visto perché, come spesso accade a Matthew McConaughey, lui è meglio del film che racconta. È talmente bravo che lo porta sulle spalle. Non sappiamo se è così bravo da cannibalizzarlo a volte, però in fondo non è neanche giusto chiedercelo. Se godiamo del cinema che ha lui come protagonista, va bene così. Free State of Jones entra nell'ordine di quei film, nel genere di quei film che rivedono, rivisitano e anche revisionano la storia americana e i suoi fondamenti, in particolare quella guerra civile che portò all'abolizione della schiavitù e appunto a due etiche contrapposte come quella del nord e del sud contro. E lo fa con qualcosa di davvero ribelle, cioè un uomo che rifiuta entrambe le ideologie e che propone un modello di integrazione che all'inizio è fondato semplicemente su ciò che è giusto e su ciò che è proprio, e che poi diventa però qualcosa di molto più alto e molto più forte. Non è la prima volta che troviamo un attivista che diventa tale nonostante tutto. In fondo Dallas Buyers Club non era altro che questa storia, non è la prima volta che sentiamo parlare di guerra civile. Non avremo probabilmente di fronte un capolavoro che cambierà né il genere né il cinema, ma sicuramente un buon film molto solido e dei grandi attori che lo portano avanti con assoluta dignità. Quindi alla fine, a mio parere, va visto, anche perché la storia è vera ed è davvero molto molto interessante. Signor Moses, voi siete un negro? No, per niente. E cosa siete? Un uomo libero, capitano. E perché? Non puoi possedere un figlio di Dio. No, non si può, è vero. Puoi possedere una casa, puoi possedere un mulo, una vacca, un toro, ma non puoi possedere un figlio di Dio. Free State of Jones, nei cinema italiani. Boris, grazie per essere stato con noi. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, salutato Boris Sollazzo, sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo, c'è ancora un film di cui parlare, la proposta un po' che può mettere insieme tutta la famiglia per questa settimana, si intitola La mia vita da zucchina, fra poco. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta La rosa purpurea. Eccoci ancora, fra poco parliamo di tutti i film da vedere in casa durante questa settimana e risolviamo il DVD game di oggi, e quindi state qua perché vi sveliamo qual è il film misterioso con cui abbiamo giocato. Prima una segnalazione di una mostra molto molto interessante che si tiene a Cremona, si apre proprio oggi tra l'altro, per chiudersi il 29 gennaio, quindi c'è molto tempo per andarla a vedere. Si intitola CHAC, 12ª mostra internazionale di illustratori contemporanei che hanno prestato le loro 650 opere al cinema, e soprattutto una personale per Un pugno di colori, mostra personale di Renato Casaro, maestro dell'illustrazione cinematografica con oltre 1000 locandine realizzate nella sua carriera. Davvero uno spettacolo per gli occhi da andare a vedere a Cremona, ve lo ricordo, a Santa Maria della Pietà, ingresso tra l'altro 3 euro, quindi davvero molto molto popolare. È una bella situazione per andare a vedere queste locandine di questo grande maestro che è Casaro. Dicevamo, ritorniamo ai film, perché ce n'è un altro di cui vogliamo parlarvi. Si intitola La mia vita da zucchina, la storia di un bambino di 9 anni, appunto soprannominato Zucchina, che dopo la scomparsa della madre dovrà trovare nuovi equilibri per la sua vita in una casa famiglia. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Buongiorno, signora direttrice. Le presento Icar. Credo che preferisca essere chiamato Zucchina. Io lo chiamerei Patata con quella faccia. Si presenta così Zucchina all'arrivo in una casa protetta per bambini. Lo accompagna il poliziotto, che ha constatato quanto accade nei primi minuti del film. La mamma del piccolo è morta, un involontario incidente, e lui è rimasto solo perché il papà se n'è andato da tempo. Non che fosse una madre esemplare, il bimbo 9 anni, testa e occhi tondi, capelli blu, giocava con le decine di lattine di birra che lei beveva, e le urla non mancavano mai. Ma era la mamma, faceva un purè buono. E lui, una lattina di birra, la tiene come ricordo e vuole che tutti lo chiamino Zucchina, come faceva lei. Anche del papà ha un ricordo. Lo ha disegnato su un aquilone, con un pollo, perché la mamma gli ha detto che gli piacevano le pollastre. Proprio per difendere l'aquilone, Zucchina ha il suo primo scontro con gli altri ragazzi dell'istituto. Diventeranno amici, soprattutto dopo l'arrivo di Camilla. Ehi, nuova arrivata, raccontaci perché sei qui. Perché mia madre tutte le mattine mi mandava a scuola mascherata da dinosauro. Davvero? Ehi, mi prendi in giro? A me piacciono tanto i dinosauri. Tutti fuori di testa. È una famiglia, quella formata dai ragazzini. Chi con problemi di abusi, chi con i genitori in carcere. Storie tutte strazianti, che si uniscono però alla normalità della vita imparata dai piccoli tutti insieme. Questi si chiamano preliminari. Se Rosy fosse in un letto con il maestro Paul, lei suderebbe un sacco e il pisellino del maestro Paul esploderebbe. Si esce con un velo di malinconia dalla visione di questo film d'animazione, insieme con un afflato di speranza nei bambini, che sfocia in alcuni punti in vera comicità e sempre in poesia. La pellicola, diretta da Claude Barras e scritta da Céline Chammat, già autrice di Tomboy, solo nel primo mese in Francia ha incassato 3 milioni di euro con 500.000 spettatori. La storia è quella del libro di Gilles Paris, autobiografia di una zucchina, da cui era stato girato anche un film, C'est mieux la vie qu'un donneron, La vita è meglio da grandi. Tout disparaît. Ma la magia non la dà solo la storia. Anche l'animazione in stop motion, con i personaggi in plastilina, più di 53 pupazzi, 9 solo per Zucchina, e un lavoro di 8 mesi di riprese. È una magia per adulti più che per bambini piccoli, non ci si faccia trarre in inganno dal cartone animato. È un manuale di sentimenti ed emozioni, con un'indomita fiducia nella bontà finale della gente. E questo era La mia vita da zucchina, grazie a Chiara Pizzimenti. Siamo arrivati quasi alla fine, però abbiamo ancora da risolvere il game della scorsa settimana. Non ho mai avuto tanta paura in vita mia, ma quando ho alzato il fucile per sparare, ho avuto una sensazione, era come una magia. E allora si trattava del drago invisibile, questo lo avevamo già detto 7 giorni fa, ma invece non avevamo detto che i vincitori sono Vincenzo Baldi di Battuda, provincia di Pavia, e Alessandro Lai di Carbonia, in Sardegna. Sono i due ascoltatori che riceveranno a casa il Blu-ray del Drago Invisibile, uno dei primi film della stagione Disney, che ci facciamo raccontare dagli amici di Film TV e da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, torna il drago Elliot, capace di svanire compagno di avventure del ragazzino Pete, ma in effetti tutto cambia rispetto all'omonimo film del 1977, e soprattutto cambia la tecnica, visto che la computer graphic e il live action qui hanno sostituito l'animazione tradizionale. Un film che, nonostante il Bryce Dallas Howard, Carl Urban, Robert Redford e un regista della scena indie come David Lowery, si rivolge ancora, però, come il film precedente, a un pubblico di giovanissimi. Si astengano quindi troppo esageratamente adulti. Il film è un live action tale, appunto remake del classico animato Disney, e l'edizione in Blu-ray è veramente ricca, ci sono tantissimi dietro le quinte, focus sulla Nuova Zelanda, il posto dove è girato questo film e dove si girano sempre più film, scene tagliati, errori sul set e un commento audio di notevolissimo interesse. Giulio, andiamo avanti con le segnalazioni dai palinsesti televisivi della prossima settimana. Martedì 6 dicembre c'è il musical che impera con Gigi su TV 2000 alle 21.05. Sì, Gigi è una ragazza graziosa di provincia che vive con la nonna e una zia nella Parigi di fin de siècle. Le due donne spiegano che la piccola diventi una mondana, una persona di lusso, e hanno anche messo gli occhi sulla possibile preda da cerchiare, il ricchissimo Gaston Lachaille. Minnelli ritrova Leslie Caron ed è completamente a suo agio a ricreare quest'aria parigina tutta frivolezze e malizie. Il film è tratto da un racconto di Colette e si presta bene a una messa in scena tutta fatta di doppi sensi e ammiccamenti che sottempino le dote degli interpreti, soprattutto un grandissimo Maurice Chevalier, dando vita a quella che è veramente un'incantevole favola musicale in un cinemascope, in un formato pieno di dettagli, barocco eppure, come sempre, il cinema straordinario di Vincent Minnelli, incredibilmente leggero. E visto che è la settimana dell'apertura alla Scala, volevamo concedere questo omaggio proprio il 7 dicembre, Sant'Ambrogio, la festa dei milanesi, prima della Scala. E allora, su Rai 3 alle 15.15, un film molto interessante, Teatro alla Scala, Il Tempio delle Meraviglie. Sì, è un bel lavoro questo documentario divulgativo con inserti docu-fiction sulla storia e le storie della Scala. Si comincia con il Va Pensiero, che sancisce l'inizio del conto alla rovescia per la prima del 7 dicembre 2014, e poi si torna indietro nel tempo pian piano con dietro le quinte testimonianze dei collaboratori che sono alternate a quelle di talenti che hanno contribuito al lustro di quello che è forse il teatro più famoso del mondo, gente come Carla Fracci, Roberto Bolle, poi materiali video e fotografici dove i grandi come Claudio Abbado e Renata Tebaldi aiutano a comprendere il lavoro, il lavorio e la storia che sta dietro ogni rappresentazione. Diciamo che la solennità di questo racconto è smorzata da 7 messe in scena in cui i 7 attori interpretano personaggi realmente esistiti che hanno avuto a che fare con la storia, appunto, di questo teatro. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Chissà quale film riuscirà a intralciare la corsa di Animali Fantastici e Dove Trovarli verso l'alto nei botteghini. Il film ha già superato gli 11 milioni e mezzo di euro e il 1.600.000 spettatori, e veleggia verso le quote altissime della classifica. Tutto vi diremo di questo e di tutto quello che si muove attorno al cinema settimana prossima, il sabato alle 18, qui su Radio 24, alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.